Pronto, dovremmo essere in collegamento telefonico con un compagno che si trova appunto a Edimburgo. Ciao Splin, ci senti? Pronto? Eccolo. Bombastro, pronto, ci senti? Ecco. Io vi sento. Perfetto. Voi mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo bene. Allora, intanto buongiorno. Allora, buongiorno a voi. Ciao. Andiamo rapidamente anche perché dobbiamo recuperare un po' di tempo, perché insomma abbiamo tante corrispondenze da fare questa mattina. Intanto, come è andata la giornata di sabato a Edimburgo e come sta proseguendo, dato che sappiamo che comunque la mobilitazione in certo senso è diventata permanente, quindi facci capire insomma cosa è successo e come si sta proseguendo. Sì, allora, no, la giornata di sabato qua è stata molto tranquilla. Beh, ovviamente non avevamo i numeri che c'erano a Roma o anche in altre città del Regno Unito. Diciamo è stata una manifestazione molto contenuta, sulle 200, massimo 300 persone, diciamo, nel momento più partecipato. E niente, si è praticamente occupata una piazza del nord della città, abbastanza in centro, e si è fatta la consueta assemblea, consueto brainstorming, si è parlato un pochino di quali erano le possibilità di un movimento del genere. Però ecco, diciamo, l'impressione almeno che ho avuto io, stando un pochino dietro anche all'organizzazione nelle settimane precedenti, è stata che la manifestazione è venuta su un pochino frettolosamente, diciamo, è stata messa su in poco tempo, anche perché chi se ne sta occupando sta portando avanti tutta una serie di iniziative e di momenti di manifestazioni che abbracciano un po', che già pensano insomma a tutto l'autunno. Per esempio qua a Edimburgo, che è una città universitaria, dove la presenza universitaria è fortissima, si stavano preparando tutta una serie di azioni, occupazioni a tempo e cortei relativi ai tagli che il sistema dell'istruzione in generale sta avendo in tutto il Regno Unito. Quindi diciamo il momento del 15 non si voleva perdere sicuramente, però ecco, è venuta una cosa molto molto contenuta. Poi qui il Regno Unito è stato deciso di fare molte manifestazioni in molte città. Quindi anche Londra ovviamente è stata una grande manifestazione, c'era molta gente, però sì, dopo probabilmente credo che riusciremo anche a sentire, lo speriamo perlomeno, un compagno che si trova a Londra. Senti, volevo invece sollecitarti rispetto a come sta andando, sì, adesso la mobilitazione, perché sappiamo che ancora insomma che l'altro giorno sono state aperte delle tende, come ormai è uso comune fare all'interno delle proteste di questo periodo, e sono ancora là le tende, no? Sì, ecco, questa è una cosa positiva, perché praticamente da sabato la piazza che è stata occupata, che praticamente è un parco, un parchetto, non è proprio una piazza come intendiamo noi all'italiana, e quel parco in teoria chiudeva alle 7, mi pare, alle 7, alle 8, e invece insomma il gruppetto di manifestanti che a quell'ora era intorno al centinaio, diciamo così, alla cinquantina, al centinaio, ha deciso di rimanere, e praticamente sono ancora lì.